Giovani talenti. Giovani talenti. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Oggi puntata interamente giocata sull'economia e sul management, con la storia che vi racconteremo tra poco di una giovane professionista italiana emigrata, pensate, nel piccolo Granducato di Lussemburgo, e l'analisi di un docente universitario residente negli Stati Uniti di come i mali endemici italiani risultino ulteriormente aggravati dalla fuga dei giovani talenti, o meglio di coloro che potremmo definire come l'elite generazionale di questo paese. Elite emigrata all'estero. La cosa che in certo qual modo mi ha stupito è che il fatto che avessi 32 anni, che mi fossi appena sposata e tutto, non costituiva, diciamo, un limite, un vincolo durante i colloqui di lavoro, tant'è che ricevetti un'offerta che poi accettai. Cosa che mi aveva stupito, perché mi ricordo una pessima esperienza di colloquio per uno stage a Milano, in cui a 23-24 anni, fresca di laurea, la persona che mi intervistava mi chiese se ero fidanzata, se contavo di sposarmi a breve, di mettere su famiglia, che onestamente per uno stage di 3 mesi non mi sembrano le domande più pertinenti. Cristina Vinci, 35 anni, è Vice President Client Services Manager presso un'importante multinazionale americana di gestione del risparmio in Lussemburgo. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura l'inchiesta di Giovani Talenti sulla database Columbus, il progetto lanciato 3 anni fa in pompa magna dal Ministero degli Esteri per raccogliere i profili degli italiani all'estero altamente qualificati, effettuando un censimento delle varie tipologie professionali. Dal 28 aprile stiamo contattando settimanalmente l'ufficio stampa del Ministero per sapere che fine abbia fatto questo importante progetto, utile a misurare l'esodo dei nostri giovani professionisti, senza ottenere alcun feedback. Questa settimana rilanciamo quindi l'appello via radio. Chiediamo al Ministero di contattarci a giovanitalenti@radio24.it e fornirci delle risposte. Vi terremo aggiornati. Arrivano incentivi fiscali per i cervelli in fuga che decidono di fare rientro in Italia e che hanno meno di 40 anni. La Commissione Finanze della Camera ha approvato mercoledì una serie di modifiche alla proposta di legge contro esodo che concedono la possibilità di sconti sotto forma di minore imponibilità del reddito, oltre a benefici in favore dei datori di lavoro italiani che intendono assumerli. Il testo è atteso in aula a Montecitorio a partire da lunedì. Coronata dal successo la Brain Calling Fair di Milano, la prima iniziativa italiana contro la fuga dei cervelli, Simone Crolla, consigliere delegato della American Chamber of Commerce, che ha organizzato l'evento. È andata bene, un evento assolutamente senza reti, c'è stato un contatto, un confronto diretto tra candidati che hanno inviato i loro progetti e le aziende multinazionali, e molti di questi progetti hanno avuto ascolto e sicuramente potranno anche essere implementati dalle aziende in futuro. Sono passati durante la 2 giorni del Brain Calling almeno 1000 visitatori, giovani da tutta Italia, e hanno potuto parlare e approfondire del loro progetto. Meno 34 giorni allo sbarco, un'iniziativa che il 25 giugno porterà 1000 espatriati italiani da Barcellona a Genova via nave, 1300 finora le adesioni pervenute sul blog, tra le ultime quella di Paolo Rossi. Aderiscono pure Lella Costa, Ottavia Piccolo, Franco Battiato. Domani a Parigi lo sbarco sarà presente al festival teatrale Migrations. Lo slogan della manifestazione: tutti hanno diritto a lasciare tutti i paesi, compreso il proprio, e di ritornare. Info su losbarco.org. La crisi economica ha colpito duramente i giovani in Europa, che incontrano sempre maggiori difficoltà ad accedere al mondo del lavoro e costruirsi un futuro. Oltre 5 milioni e mezzo di under 25 sono disoccupati. Lo sostiene la relazione dell'europarlamentare popolare Georgios Papanikolaou, che propone una strategia comunitaria. I giovani sono la parte più viva e dinamica della società, sono come la benzina. Se non c'è benzina, la macchina non cammina, sostiene Papanikolaou. E sono tutti italiani, 4 di Napoli e 1 di Taranto, i 5 ricercatori del laboratorio di genetica nato negli Stati Uniti a Houston per studiare i meccanismi molecolari che portano le cellule ad accumulare sostanze di scarto tipiche di malattie come Alzheimer e Parkinson. Considero il laboratorio un ponte oltreoceano per Teleton, ha detto il direttore dell'istituto Teleton Andrea Ballabio. I giovani resteranno negli Stati Uniti per 3 anni. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: uno specialista in Public Financial Management al Coffee International Development di Port Moresby in Papua Nuova Guinea, contratto di 1 anno, scadenza per i CV 24 maggio, info su careers.coffee.com. uno Science Ground Segment Liaison Scientist alla sede di Madrid dell'Agenzia Spaziale Europea, si occuperà della missione Bepi Colombo che raggiungerà Mercurio nel 2020, scadenza per i CV 31 maggio, info su esa.int/careers. E infine un consigliere legale per Inter Ikea Group in Lussemburgo, richiesta la laurea in giurisprudenza e un'esperienza in banca o multinazionale, scadenza per i CV 30 maggio, info su franchisor.ikea.com. E restiamo nel Granducato di Lussemburgo per raccontarvi la storia di questa settimana di giovani talenti. Per la prima volta approdiamo in questo piccolo paese incastonato tra Belgio, Francia e Germania. Nome: Cristina. Cognome: Vinci. Età: 35 anni. Città di origine: Busto Arsizio, provincia di Varese. Studi: liceo classico a Busto in provincia e laurea economica a Milano in Bocconi. Anno in cui hai lasciato l'Italia: definitivamente nel 99. Per andare dove? A Lussemburgo. Perché? Perché lì è dove mi è stato offerto il primo contratto di lavoro a durata indeterminata. Quale lavoro svolge attualmente? Lavoro per una società americana di gestione del risparmio per la sede lussemburghese. In questo momento sono in maternità. Dove? A Lussemburgo. Tornerai? Sì, se ce ne fosse l'opportunità, condizioni economiche e professionali almeno rispettose, sia per me sia per mio marito, con la sensazione però che sarebbe più una scelta affettiva che razionale. La nostra patria, questo l'inno del piccolo Granducato di Lussemburgo, mezzo milione di abitanti e un'estensione pari a poco più di 2500 km quadrati. Secondo il sito italiani.lu sono ben 22.000 i connazionali residenti, uno su quattro di loro originari della Puglia. Molti di questi 22.000, è facile supporre, appartengono alle emigrazioni del passato, ma sono in tanti anche coloro che negli ultimi anni sono emigrati verso il Granducato. Tra loro c'è anche Cristina Vinci. Allora Cristina, come si vive in Lussemburgo? Si vive piuttosto bene, direi che la qualità della vita è molto elevata e ci sono spazi professionali abbastanza agevoli. Cristina, iniziamo a parlare del percorso che ti ha portato in Lussemburgo, partendo proprio dai tuoi studi. Dopo il liceo classico tu ti iscrivi all'Università Bocconi di Milano. Esatto, ho terminato l'università, cercavo lavoro e tra i vari annunci cui ho risposto ce n'era uno pubblicato presso l'ufficio laureati della mia università da un ente no profit italiano con sede a Lussemburgo. Prima di arrivare lì però parliamo anche un po' dell'esperienza universitaria. Ti ha soddisfatto? È qualcosa di cui conservi un buon ricordo? Assolutamente sì, è una delle cose che ricordo meglio, che apprezzo dell'aver eseguito il mio ciclo di studi in Bocconi, che comunque l'università mi ha permesso di svolgere esperienze all'estero durante gli studi, il che probabilmente mi ha permesso di essere aperta anche a offerte a proposte di lavoro oltre i confini nazionali. Tu nel corso dell'esperienza universitaria svolgi anche un Erasmus, un periodo di Erasmus a Barcellona, è un periodo in qualche modo importante poi per quello che farai dopo, ti apre un po' gli orizzonti? Sì, esatto, ho svolto il classico Erasmus durante il quarto anno universitario a Barcellona presso l'Università ISADE e tornata ho deciso di fare domanda presso sempre la Bocconi per partecipare al Master Champs, che è un titolo diciamo di armonizzazione dei titoli di laurea universitari all'interno di un circuito di università europee di cui la Bocconi all'epoca era rappresentante. Per ottenere questo titolo devo fare un secondo periodo all'estero che ho svolto presso l'Erasmus Universitat di Rotterdam. Una volta conseguita la laurea tu fai comunque delle esperienze di stage presso il consolato argentino di Milano e poi anche presso JP Morgan sempre a Milano. Dopodiché, come dicevi pochi istanti fa, trovi questa opportunità presso un ente no profit italiano a Lussemburgo. Immagino anche che al momento tu abbia pensato proprio in Lussemburgo, no? Non è proprio la meta più immediata. Com'è stata questo primo impatto? È verissimo, di fatto partì perché era a cavallo dell'estate, non avevo voglia, terminata la laurea, di rimanere tutta l'estate con le mani in mano a Milano, visto che il mondo lavorativo è abbastanza sonnacchioso durante i mesi estivi. Mi fissai come obiettivo quello di rimanere perlomeno fino a Natale e vedere un po' come andava, se mi ambientavo, se mi piaceva il lavoro. La cosa da dire è che l'ente offriva in maniera forse un po' furbetta un contratto di lavoro a durata indeterminata con uno stipendio che era leggermente superiore a quello che offrivano di solito le società in Italia con il contratto di formazione lavoro, quindi era abbastanza attraente per chi stava in Italia. Arrivata però a Lussemburgo tramite sia compagni universitari recuperati qua, sia altri giovani laureati come me conosciuti sul posto, scoprì che le condizioni lavorative, le offerte economiche in Lussemburgo di banche, società di gestione del risparmio, assicurazioni, società di consulenze erano di gran lunga più allettanti, offrivano fino anche il doppio a un neolaureato di quello che mi era stato inizialmente offerto dall'ente. Il che, devo dire, probabilmente considerati i bassi stipendi, i bassi salari per i neolaureati in Italia, deve costituire probabilmente sempre una sorpresa abbastanza grossa. Come dire, si varcano le Alpi e si scopre che se hai una laurea e hai voglia di fare, ci sono anche proposte più allettanti, o no? Assolutamente, come me tanti erano capitati per caso, vuoi per uno stage, anche per società, anche per banche italiane, vuoi perché conoscevano qualcuno e ci sono rimasti. Quindi tu dopo circa 4 mesi dai le dimissioni da questo ente no profit italiano e passi direttamente a questa importante società americana di gestione del risparmio per cui lavori tuttora, ed è anche il caso forse ricordare che hai fatto un percorso professionale interno molto interessante, perché in questo momento sei vice president, cioè hai una carica di assoluto rilievo, o sbaglio? Forse vale la pena notare che quando ho accettato l'offerta di lavoro presso la società per la quale lavoro mi sono anche trovata nella posizione di poter negoziare, perché in contemporanea avevo più di un'offerta, che da neolaureati è ancora più... Questo in Italia secondo te è possibile? A me non è capitato nel periodo in cui ho cercato lavoro, magari a qualcun altro succede. Io qui posso dire che in 2 mesi mi sono trovata con 2 offerte in mano, in contemporanea. E avevi quanti anni? 25. Vabbè. Andavo per i 25. Ecco, stavi dicendo appunto il tuo percorso interno? Sono entrata presso la società per la quale lavoro attualmente come analista, diciamo ultima ruota del carro sul mercato italiano. Ho potuto ricoprire diversi ruoli e lavorare su vari progetti. Prima di andare in maternità ero a capo di un team di 10 persone, un team internazionale che offre i servizi alla nostra clientela istituzionale, i clienti che acquistano i nostri prodotti. Di fatto c'è la rete commerciale che vende il prodotto, ma poi quando i clienti hanno domande vengono da noi. Quindi diciamo tu ti trovi a 35 anni nell'invidiabile posizione di avere un ruolo di importante, di assoluta responsabilità a capo di un team internazionale, cosa che appunto probabilmente non sarebbe stata così semplice alla tua età in Italia. È facile, Cristina, progredire così tanto all'estero? Diciamo che la fortuna mia e di quanti sono approdati a Lussemburgo a fine anni 90, inizio 2000, è che l'attività lussemburghese legata alla gestione dei fondi di investimento lussemburghesi era in piena esplosione, quindi devo dire che essendo l'attività nuova in fase di avvio, le società erano chiaramente in forte crescita, in forte espansione, quindi direi di sì, chi è arrivato con me e anche prima di me ha avuto opportunità di crescere abbastanza in fretta. Il Lussemburgo, ricordiamo, anche un po' patria poi dei fondi di investimento, uno dei paesi in Europa dove la finanza ricopre un ruolo anche tra i più importanti, potremmo dire. C'è un altro fattore forse a prendere in considerazione, Cristina, e riguarda in qualche modo anche la possibilità all'estero per una donna di fare carriera conciliando anche lavoro e vita familiare. Quello che ho potuto sperimentare sulla mia pelle è che dopo un tot di anni che lavoravo per la società per la quale tuttora lavoro, dopo essere ritornata, sono stata contattata per un'altra offerta di lavoro sempre qua a Lussemburgo, e la cosa che in certo qual modo mi ha stupito è che il fatto che avessi 32 anni, che mi fossi appena sposata e tutto, non costituiva, diciamo, un limite, un vincolo durante i colloqui di lavoro, tant'è che ricevetti un'offerta che poi accettai, cosa che mi aveva stupito, perché mi ricordo una pessima esperienza di colloquio per uno stage a Milano in cui a 23-24 anni, fresca di laurea, la persona che mi intervistava mi chiese se ero fidanzata, se contavo di sposarmi a breve e di mettere su famiglia, che onestamente per uno stage di 3 mesi non mi sembrano le domande più pertinenti, visto e considerato non sarei mai riuscita a fare tutto quello che mi chiedeva in 3 mesi. C'è anche forse una questione di mobilità professionale in Lussemburgo, almeno per quanto mi dicevi, mi raccontavi, che è forse più semplice. Mettersi sul mercato all'estero forse è qualcosa di più fattibile? Direi che bisogna dividere, diciamo, il Lussemburgo in 2 fasi, nel senso la fase dell'inizio anni 2000 e metà degli anni 2000 dopo il breve raffreddamento legato alle conseguenze delle Torri Gemelle del 2001, direi che mercato del lavoro era quanto mai mobile, quanto mai dinamico. Io sono l'eccezione, che sono, per il fatto di essere rimasto così tanti anni per la stessa società rappresento un po' l'eccezione, la media della gente cambiava lavoro. Questo è vero. Anche ogni 12-14 mesi. È vero che adesso, dopo lo shock di un anno e mezzo fa, anche qui il mercato si è un po' più raffreddato. Detto questo, offerte, Lussemburgo rimane un paese comunque che importa lavoro. Nel mio settore offerte per profili molto qualificati ci sono, hanno ripreso ad esserci e se uno ha caratteristiche specifiche può trovare ancora opportunità. Per riassumere, Cristina, al netto diciamo delle crisi economiche o finanziarie, se uno ha qualità, ha voglia di mettersi in gioco, manda dei curriculum, le offerte in qualche modo arrivano e può anche diventare manager di se stesso, potremmo dire. Sì. Domanda di rito prima di dare la linea al traffico. Cristina, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Io dopo 10 anni devo dire che l'Italia mi sembra un paese un pochino complicato, a tratti sconosciuto, un po' chiuso in gruppi, in maniera forse un po' provinciale. D'altro canto l'Italia è uno dei paesi col più basso tasso di salto sociale da una generazione all'altra. Il mio maggior timore è quello, se rientrassi in Italia domani, di sentirmi un po' straniera in patria e discriminata a casa mia. Giovani talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Cristina Vinci, 35enne manager di stanza in Lussemburgo, laureata all'Università Bocconi e dopo alcuni stage a Milano ha accettato l'offerta di un ente no profit italiano in Lussemburgo, dove è approdata infine alla divisione Investment Management di un'importante banca d'affari americana. Attualmente in maternità ha raggiunto il livello di Vice President, a capo di un team internazionale di 10 persone. Ci raggiunge in linea Elisabetta Andreoni, anche lei laureata in Bocconi e ora assunta da un importante gruppo bancario francese a Milano, dove è Relationship Manager. Di cosa ti occupi esattamente, Elisabetta? Sono responsabile di gestire la relazione e quindi ho un ruolo di coverage rispetto a un portafoglio di clienti italiani large corporate. In questo ambito quindi gestisco la relazione della banca rispetto appunto a dei clienti corporate di settori diversi. Elisabetta, tu hai fatto un percorso poi abbastanza simile a quello di Cristina, la protagonista della puntata, anche perché tu ti sei laureata in Bocconi come lei, probabilmente vi siete conosciute e siete diventate amiche lì, solo che poi la tua strada è rimasta in Italia, anche se notavo io poi leggendo i vostri profili, tu sei rimasta in Italia ma lavorando presso una multinazionale straniera. Un percorso simile per una grande azienda italiana sarebbe stato possibile? Secondo me no, è molto raro, cioè nella mia esperienza è difficile, soprattutto nel mondo finanziario, trovare altre donne e quando le si trovano normalmente in istituzioni internazionali. E i miei interlocutori anche nelle aziende, stiamo parlando comunque di aziende italiane grosse, la maggior parte sono uomini. Infatti c'è quasi un paradosso, tu alla fine lavori sempre per un'azienda straniera e c'è un problema forse di quello che gli inglesi chiamerebbero gender gap, cioè di una, tra virgolette, quasi discriminazione delle donne nell'ambito italiano. Perché, Elisabetta? Ma io credo che ci sia un forte pregiudizio che una donna necessariamente a un certo punto della sua vita debba fare una scelta tra professione e famiglia. Quindi si tende a discriminarle addirittura all'inizio, prima ancora che debbano arrivare a questa scelta, proprio perché crescere una persona vuol dire fare un investimento per l'azienda e quindi si vuole investire su un cavallo che si può portare fino al traguardo finale. E perché all'estero questi discorsi, questi ragionamenti non si fanno? Beh, io credo che sia proprio un fatto culturale. Io appunto, come si diceva, lavoro comunque in una realtà francese. In Francia sicuramente c'è una natalità diversa, quindi cioè vuol dire che c'è un piano direzionale strategico diverso per cui si incentivano le famiglie ad avere più figli, addirittura credo che la media sia 3 figli a famiglia. E di conseguenza, perché c'è questo interesse generale, c'è, come dire, nella cultura comune è accettato che una donna possa fare figli, farne più di uno e continuare la sua vita professionale. Cristina, c'è una domanda che vorresti porre ad Elisabetta? Quello che volevo chiederti è se ti sei mai chiesta quale evoluzione la tua carriera avrebbe preso se avessi deciso di varcare il confine o se hai mai pensato di varcare il confine. Bah, effettivamente sì, l'ho pensato diverse volte e come tu sai non l'ho fatto per condizionamento familiare, perché ho una famiglia che ama molto avere i propri affetti vicini, quindi mi hanno frenato appena finita l'università, poi ho iniziato diciamo la mia carriera qua in Italia e in qualche modo mi sono instradata qua. Sicuramente ho rimpianto che ho, la mia carriera sarebbe stata sicuramente agevolata se fossi andata all'estero. È un leitmotiv, Elisabetta, incredibile, cioè anche tra chi rimane in Italia, tra i giovani come te che rimangono in Italia, c'è sempre un po' questo rimpianto, forse per non aver preso una strada differente, ma fa male sentirlo, soprattutto se pensiamo che forse il motivo per cui lo si ha è che l'Italia non offre quello che altri paesi all'estero offrono. Un'ultima domanda, Elisabetta, c'è oltre a un problema di genere, cioè di sesso, cioè il cosiddetto gender gap, anche un problema di età in Italia, cioè se non hai una certa età in Italia fai fatica poi a raggiungere certi livelli professionali? Sì, secondo me c'è una diciamo interpretazione del concetto di seniority diverso, nel senso che all'estero una persona senior è definita senior a seconda della propria esperienza e del proprio bagaglio culturale. In Italia una persona senior è una persona senior per ragioni anche di età. Per cui spesso un giovane che è preparato, che ha già avuto un'esperienza interessante, è in qualche modo relegato a ruoli minori perché non ha quell'età che gli consente di avere una credibilità nei confronti dei propri interlocutori. Siamo ancora troppo legati forse a quella canzone Non ho l'età, questa volta in ambito lavorativo. Grazie ad Elisabetta Andreoni e ora un'ultima domanda di rito per Cristina Vinci. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando tra le varie vie di uscita anche a un espatrio? Cristina. Ma io gli consiglierei di prendere in considerazione tutte le opportunità che vi sono in Italia e anche fuori dall'Italia. La cosa che bisogna tenere presente quando ci si allontana dalla propria città di origine è che diciamo si sa quando si parte ma non si sa quando si rientra. Il rientro non è così scontato, piani è difficile farne e quindi bisogna essere un po' preparati a tutto. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo di un sito di economisti italiani negli Stati Uniti che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. Michele Boldrin, uno dei fondatori di Noise from America e direttore del Dipartimento di Economia alla Washington University, ci spiega come è nata l'idea del sito. Nasce per caso da 5 persone che si parlano fra di loro, colleghi tutti economisti, io, Andrea Moro, Alberto Bisin, Sandro Brusco, Giorgio Topa. Si voleva parlare fra di noi molto privatamente di questioni di politica economica. Mi ha messo sul blog proprio per comunicare in maniera tutto privata. Poi è cominciato a circolare, uno dei grandi vantaggi della rete, specialmente prima fra gli economisti italiani all'estero, poi in Italia, e nel giro di 3 anni è diventata una cosa un po' più grande di noi. Si occupa soprattutto di economia e politica economica. Com'è l'Italia economicamente vista dagli Stati Uniti? L'Italia è un paese in stagnazione e in declino da circa 10-15 anni in maniera palese, a mio avviso probabilmente da più, però nei dati è esplicito dalla seconda metà degli anni 90. È un paese bloccato e noi ci riflettiamo sulle cause di questo blocco. Pensiamo che una delle ragioni del declino abbia anche a che fare con la perdita, con il flusso sempre più alto, sempre più forte, costante ormai da più di 20 anni, di forza lavoro qualificata che se ne va all'estero, perché nel paese non riesce a trovare motivo per stare, opportunità per farsi valere, per prosperare. Quindi al di là di crescita e liberalizzazioni, il tema della fuga dei cervelli, della fuga dei talenti o comunque della fuga di chi ha una laurea, di chi è forza lavoro qualificata, incide molto più di quello che pensiamo, è corretto? A mio avviso sì, a mio avviso se fosse stato un fenomeno solo di alcuni anni, un breve periodo, una moda, o se fosse stata compensata da un'apertura del paese, da una capacità del paese di attrarre simili forze da altri paesi, non sarebbe così grave. Oggi, guardi, io sono uno di, non sono di quelli per primo, però ormai sono quasi 30 anni che sono andato via e i tempi miei cominciavano a crescere, inizio anni 80. Adesso un fiume in piena, tutti gli anni io incontro, e non sono solo i laureati, non sono solo gli accademici, incontro imprenditori, professionisti di vario tipo, dagli architetti, agli ingegneri, ai chimici, ai medici, ai quattro angoli non solo dell'America e dell'Europa, ma del mondo. ed è un flusso enorme che non è compensato con un analogo flusso di arrivo da altri paesi. Questa è la cosa tragica, che significa che il sistema italiano, sia economico o sociale, non attrae gli ambiziosi, i capaci, i mobili, se vuole anche quelli di belle speranze che però ci provano, degli altri paesi. L'Italia non viene percepita come il posto dove andare a provarci. E perché non attrae? L'Italia è un paese chiuso, un paese in cui il merito non si premia, in cui tutto avviene per canali interni di connessione, di raccomandazione, di famiglismo morale italiano, di clan, di appartenenza, in cui si parla continuamente di eccellenza, merito, eccetera, ma non si pratica mai. Paese in cui fondamentalmente non c'è concorrenza, non c'è spazio per persone ambiziose che possono farsi valere per quel che sanno fare, per quel che sanno produrre, e non perché hanno il buon cognome, hanno la corruzione, hanno studiato nel posto giusto. Quindi non attrae. Questo finisce per colpire inevitabilmente anche i giovani. Beh, questo è soprattutto colpisce i giovani. Io credo di avere un conto relativamente preciso di ricercatori accademici italiani in tutte le aree, dai poeti ai fisici nucleari, che lavorano in questo momento nei paesi dell'Unione Europea, fuori dall'Italia, Stati Uniti, Canada. E arrivo a una stima fra gli 8 e i 10 mila. Lei capisce che se l'Italia fosse un paese normale, dovrebbe ricevere dagli altri paesi una quota più o meno simile di persone. Lei dove li trova? Per maggiori informazioni potete cliccare su noisefromamerica.org. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: quanto è ancora suggestivo il sogno americano dell'emigrazione oltreoceano? È un'esperienza che raccomandereste a dei giovani di talento? Ci ha risposto Riccardo: il sogno americano è dentro tutti quelli che vogliono il cambiamento. Negli Stati Uniti si viene allevati in maniera sistemica in quest'ottica. Il cambiamento è un tratto culturale ed è sempre possibile, sono ancora oggi pionieri, c'è sempre un territorio a ovest da esplorare, scrive Riccardo. Vero, gli US sono un paese con grandi differenze e problemi. Io lo definisco il paese dei paradossi, ma dentro tali paradossi è permesso e favorito l'emergere di nuove idee, in ogni campo, le quali, temprate da una forte competitività, se hanno gambe, possono correre. Io sono tornato dagli US e ciò che mi porto dietro è soprattutto una crescita umana. Questo ha scritto Riccardo. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione che rivolgiamo in particolare al nostro pubblico femminile. Lavorare all'estero, una scelta vincente per le giovani professioniste italiane in termini di opportunità lavorative, avanzamento di carriera e possibilità di conciliare al meglio vita professionale e familiare? Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi online. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.